Bentrovati a Suoni Paralleli, un programma di approfondimento sulla musica a tutto tondo in onda sulle frequenze di Radio Fujiko 103.1 FM. Un salotto convivio tra musicisti addetti ai lavori e non solo, rivolto a soddisfare le curiosità che girano intorno al mondo della musica. Chi vi parla è Antonino Barresi e con me di solito a condurre il nostro viaggio c'è anche Francesca Clementoni, che però oggi non è in studio con noi per la registrazione di questa puntata per degli impegni professionali. A lei va comunque il nostro saluto e diciamo va la dedica di questo nostro primo brano, che un po' riassume il nostro concept, il nostro filo conduttore della nostra trasmissione, che è l'incontro tra tanti generi musicali diversi e spesso il mix e la miscela che da loro viene prodotta tra i nuovi sound e i vecchi suoni che hanno fatto parte della nostra formazione, del nostro background. Uno degli esempi, uno dei capostipiti di questa miscela e di questa fusione è sicuramente il producer Saint-Germain, di cui andiamo ad ascoltare subito So Flute per introdurre il nostro viaggio e la nostra puntata di oggi. Ancora benvenuti, questa è Suoni Paralleli, So Flute, Saint-Germain. We'll be right back. ancora benvenuti a Suoni Paralleli in onda sulle frequenze di Radio Fujiko, un programma che parla dei nuovi generi musicali e del come si miscelano quei vecchi sound. Programma che parla anche quindi dei processi creativi e dei processi tecnici che portano alla realizzazione e alla stessa esistenza della musica, così come la andiamo ad ascoltare nelle produzioni discografiche come anche in radio. Ospite della nostra puntata, una davvero graditissima presenza, perché un musicista di estrazione jazz di cui abbiamo già fatto ascoltare qualcosa nelle precedenti puntate, facendo ascoltare diverse delle sue formazioni. Finalmente ce l'abbiamo qui ospite con noi in studio per fare due chiacchiere, per parlare di miscela, per parlare di world music, per parlare di suono e di sonorità. Benvenuto a Suoni Paralleli, Mr. Pasquale Mirra. Ben trovati e grazie per avermi invitato. Sono molto felice di essere qui, sono molto felice di incontrare Antonino e nulla. Pasquale, benvenuto. Come dicevamo all'interno della nostra prefazione, abbiamo già fatto ascoltare diversi lavori dove il tuo vibrafono si è fatto notare. Questa cosa, a quanto pare, possiamo già dirla, non è stata colta solo dall'occhio e dall'orecchio di Suoni Paralleli, ma è stato anche portato avanti e notato anche da diversi giornali nazionali, che spesso ti hanno classificato tra i migliori musicisti jazz col tuo vibrafono, possiamo dirlo. È davvero un piacere per Suoni Paralleli averti qui. Direi di far ascoltare subito qualche registrazione di qualche tuo progetto. Che ne pensi? Da dove partiamo? Visto che abbiamo fatto ascoltare da subito Saint Germain e questa unione tra la world music e la musica electro lounge, che ne dici? Da quale progetto potremmo partire? Io credo che il progetto più indicato è sicuramente i Mop di Andrea Benini. Infatti pensavo proprio a loro. Adesso poi andremo a presentarli ancora meglio e a parlare un attimo di loro. Questa intanto che andiamo ad ascoltare è Living Beat, produzione Mop al vibrafono Mr. Pasquale Mirra, ospite qui oggi a Suoni Paralleli. Ancora benvenuti. Right on. Nice and easy. Thank you. Ancora ben trovati, questi erano i Mop Mop, siamo a Suoni Paralleli, ospite della puntata, Mr. Pasquale Mirra, ancora benvenuto Pasquale. Abbiamo subito aperto con un set dei Mop Mop che ben esprime anche un po' il concept della nostra stessa trasmissione, vale a dire il mix tra le culture e i generi musicali diversi all'interno di una stessa produzione. Io parto subito con una domanda, Pasquale, una domanda che chiedo e che faccio a tutti i nostri ospiti, anche perché insomma mi interessa il parere non solo degli addetti discografici in questo caso, ma soprattutto quello dei musicisti che poi la musica la vanno a produrre. Ti chiedo subito, Pasquale, quanto credi che il mix delle culture diverse, quanto credi che il mix dei generi musicali diversi sia importante nel background di ogni singolo musicista nell'epoca in cui viviamo, nelle nuove produzioni che andremo a scrivere? Beh, io credo sia qualcosa di assolutamente fondamentale, più che importante, cioè nel senso è quasi prioritario per quello che mi riguarda. E questo lo racconta anche un po' il mio percorso artistico, nel senso che io mi sono approcciato ad uno strumento dopo lo studio delle percussioni che comunque era un po', aveva una sua collocazione ben precisa, che era appunto il jazz. Però da ben presto mi è stata un po' stretta come collocazione, perché è uno degli strumenti più giovani e quindi sul quale ancora non c'è stata una forte ricerca, e questo mi ha spinto a voler trovare, provare, cercare qualcosa di diverso rispetto a quello sinora ascoltato. E ovviamente il diverso spesso mi è capitato di trovarlo appunto nella contaminazione con generi diversi. Certamente il percorso fatto mi ha determinato e ha caratterizzato quello che oggi è un po' il frutto, se così si può dire, di quello che sono. Certo, parli di percorso nel senso anche come incontro con altri musicisti. Per percorso intendo ovviamente incontri musicali, e uno sicuramente il primo è stato quello con i Mop Mop, avvenuto all'inizio del 2001, che è stato l'anno che poi mi sono trasferito a Bologna. Importante, ci sono stati tanti a quanto pare, è importante, certo. è stata molto importante il lavoro che ho fatto con i musicisti maliani, il tour che ho fatto per il Festival Au Desert, dove sono stati 2 anni di collaborazione intensa, vissuti appunto, scusa il gioco di parole, ma intensamente, perché erano delle vere e proprie residenze. E l'approccio musicale è stato completamente diverso, nel senso era un approccio più appunto africano, quindi più orale, nulla di scritto, e quindi le residenze duravano spesso una settimana in vari punti d'Europa, e dove i primi 4 giorni il lavoro si sviluppava appunto sul costruire insieme brani, ma senza nessun utilizzo di partiture o di musica scritta, e gli ultimi 3 giorni invece si facevano concerti nei festival organizzati in queste città europee che toccavamo. È davvero un vero e proprio esempio di mix di culture, di miscela. È stata un'esperienza, io credo che un'esperienza abbastanza determinante nel mio percorso, perché comunque le residenze significava suonare insieme 8-9 ore al giorno, ma dormire insieme, vivere la musica insieme, respirare ogni momento in una condivisione totale. E questo ovviamente ha significato per me lavorare con balafonisti, e quindi diciamo che il balafon possiamo considerarlo il babbo del vibrato, certo, però con un approccio totalmente diverso da parte dei balafonisti. Ovviamente ha suscitato in me una curiosità infinita, e da lì il musicista poi musicista per come lo intendo io, quindi ricercatore, è spinto, spronato a trovare qualcosa che possa ricordare quei suoni sul proprio strumento, e per me quindi da lì parte anche la ricerca di timbri diversi che magari lo strumento non offre, ma che vanno ricercati e che vanno appunto studiati, perfezionati. Certo, guarda, io credo che sia davvero una cosa fondamentale per ogni musicista, proprio avere la possibilità tramite gli input, tramite gli incontri che vengono fatti nel percorso che andiamo a fare dal punto di vista strumentale, sia importante proprio per ogni musicista avere la possibilità di, tramite questi input, di crescere e di andare a svolgere una vera e propria attività di ricerca. Sappiamo che tu te ne sei occupato molto, so di diverse registrazioni e produzioni in cui c'è stata, non solo come nelle residenze in questo caso che hai fatto un po' in tutta Europa, questo incontro tra diversi generi musicali. So che tra l'altro una delle tue collaborazioni più importanti negli ultimi anni è stata proprio con un musicista di estrazione di world music, un percussionista, si chiama Emid Drake, di cui volevo andare a far ascoltare subito un lavoro insieme a te, una registrazione di un live che è stata fatta forse durante proprio una di quelle residenze di cui mi parlavi, potrebbe essere, oppure no, era un concerto durante una tournée europea? No, era una tournée europea che facevamo con Emid, in quel caso l'Atlantic Jazz Festival in Bretagna. Abbiamo fatto 8 concerti in giro tra la Bretagna, e anche quello è stato un incontro, suono parallelo. È stato anche quello, ovviamente Hamid io lo definirei, non riesco a etichettarlo. A me nella musica in generale non mi piace etichettare i generi musicali, qualcosa che credo serva più al critico musicale. Certo. Però io da musicista parlo di musica, poi non mi soffermo al genere. Questo con Hamid, quindi questo per dire che Hamid è un musicista a tutto tondo, per me lui è stata una fortuna incontrarlo. Ormai sono 7 anni che si collabora insieme, abbiamo fatto più di 70 concerti in giro per il mondo. Qualcuno anche nella nostra Bologna abbiamo visto. Qualcuno anche a Bologna, di recente al Bologna Jazz Festival. E quello però era il 2010 ed erano i primi anni. E quel tour è stato molto bello perché gli spostamenti avvenivano in un van e si parlava tantissimo di musica, si ascoltava tanta musica, si passava da veramente, ecco, a proposito di da ogni genere musicale. Cioè, e il repertorio era costruito attraverso gli ascolti, perché noi abbiamo cominciato completamente lavorando sull'improvvisazione. Poi c'è stato uno step successivo, ovviamente basato sulla conoscenza, e abbiamo cominciato a decidere di voler suonare un repertorio. Poi dopo il repertorio successivamente abbiamo pensato di creare proprio un mix e quindi lasciare un ibrido tra improvvisazione e scrittura, ma dove ovviamente il potere tra virgolette decisionale era tutto basato sul vibrafono, perché comunque armonia e melodia era quello che creava il tema, diciamo il filo conduttore della performance in questo senso. E poi lui mi ha dato possibilità di fare esperienze con musicisti americani, mi ha invitato in un suo gruppo americano, ho partecipato a diversi festival e quest'anno l'ultimo a Chicago, ho fatto 20 giorni in giro con vari progetti, tra cui qualche concerto appunto con Hamid. Bene, io direi allora a questo punto, Pasquale, di andare a far ascoltare qual è uno dei risultati. In questo caso facciamo ascoltare un live, questo qui di cui parlavamo, in Bretagna, che però insomma rappresenta il risultato proprio di questa attività di ricerca fatta da te, Hamid Drake, in giro, mi immagino romanticamente, in questo van di ricerca. Poi sarà stato davvero un laboratorio mobile in giro un po' per tutta Europa, sarà stata davvero un'esperienza di cui insomma mi piacerà ancora parlare, poi ne parliamo dopo. Intanto facciamo ascoltare questa track, Pasquale Mirra meets Hamid Drake, questa è Suoni Paralleli. Oh, my God. ben trovati, Suoni Paralleli, un programma di approfondimento sulla musica a tutto tondo, in onda sulle frequenze di Radio Fujiko, un programma, dicevamo, di ricerca e di concept puntato sul mix delle culture e dei generi musicali. Chi vi parla è Antonino Barresi e con me oggi ospite graditissimo di questa puntata Mr. Pasquale Mirra, musicista di estrazione jazz, vibrafonista di estrazione jazz, che però ha avuto modo nell'ambito del suo percorso di dialogare con diversi artisti e con diversi generi musicali. Ancora benvenuto a Suoni Paralleli, Pasquale. Abbiamo appena fatto ascoltare, prima del break pubblicitario, questa take live in cui in Bretagna veniva questo incontro tra te e David Drake, uno dei percussionisti, diciamo, più quotati anche a livello americano, mi dicevi in questo momento, giusto? Pasquale, te lo chiedo per curiosità, proprio per dare un'informazione al nostro pubblico. David Drake, a quanto pare, è considerato tra i migliori percussionisti al mondo in questo caso, ma a quanto pare dalla percussione la sua attività di ricerca si sviluppa fino ad incontrare anche melodicamente quelle che possono essere le sonorità del jazz di Pasquale Mirra. Quindi davvero un musicista a 360 gradi che, come te, punta sul mix delle culture e l'incontro dei generi musicali diversi, mi sembra di capire, vero? Ma sì, Hamid ha una storia fantastica, diciamo che è stato il batterista storico di Don Cherry e ha lavorato veramente con Herbie Hancock, con Way Shorter, certo, con i grandissimi. È un batterista strepitoso, un percussionista, perché poi suona il fine drum, ma canta. Insomma, diciamo che, come dicevo prima, è un musicista che può suonare qualsiasi cosa. Ed è stato sinceramente anche un piacere avervi a Bologna, perché sappiamo, spesso poi ne abbiamo parlato approfondendo anche questo argomento con diversi addetti ai lavori anche nelle scorse puntate, che trovare spazio per questi progetti così, tra virgolette, sperimentali, così particolari, di incontro, di commistione, spesso e volentieri anche a Bologna non è così facile, insomma, spesso gli spazi stanno venendo meno. Infatti, Pasquale, io colgo l'occasione, approfitto un po' anche per chiederti, come faccio spesso anche ai nostri ospiti, qual è secondo te lo stato dell'arte, qual è la salute, qual è lo stato di salute in questo momento della nostra città, della nostra Bologna, dal tuo punto di vista, che sei uno in questo momento dei musicisti anche più richiesti. Sappiamo bene che a Bologna c'è sempre stata una fucina d'arte negli anni, che si è sviluppata e ha dato modo a tanti musicisti di esprimere e di fare ricerca. Credi che in questo momento la situazione sta continuando così, oppure che Bologna stia vivendo un po' come tutta Italia, forse una fase di declino per quello che riguarda il live e la possibilità di portare in live dei progetti di incontro come quello tuo con Hamid Drake, ad esempio? Adesso, l'ultima volta che siete stati ospitati a Bologna, se non sbaglio, il palco è stato quello del Jazz Festival, che credo sia molto appropriato, ma oltre a questi grandi eventi, pensi che lo stato di salute del live a Bologna sia, insomma, buono, sufficiente, mediocre, scarso? Che ne pensi, Pasquale? Una curiosità sapere. Guarda, mi becchi in un periodo che proprio sono in conflitto con questa città in cui ho vissuto 16 anni, perché credo che sia molto in declino. I fattori sono tantissimi, magari non voglio proprio dilungarmi su questa cosa, ma sicuramente dire mediocre forse è fare un complimento a questa città, ahimè. Mi dispiace tanto, lo dico con rancore, perché è la città in cui mi sono spostato, perché in Italia comunque non so dire se era il meglio o il meno peggio, però sicuramente accadevano delle cose, e in questi anni queste cose sono sempre di più scomparse, se non morte. Un po' io credo che sia necessità della politica, sia necessità delle strutture, di come vengono ormai gestite, come viene gestita la musica in città, i luoghi dove poter suonare, sei un musicista, sai molto bene che, certo, non sono tanti, addirittura quasi nulli, quei pochi che ci sono c'è da combattere, perché hanno spesso dei problemi dal punto di vista proprio della possibilità di esercitare, di far ascoltare, e soprattutto non c'è tutela nei confronti della cultura, non c'è tutela nei confronti della musica e dell'arte in generale, perché poi noi parliamo di musica, ma mi verrebbe di pensare a più forme d'arte che hanno lo stesso tipo di difficoltà. Mi sembra che ormai si sta decidendo di Bologna sta diventando il luogo dove avvengono le grandi manifestazioni, i grandi concerti, i grandi palchi, e poi in realtà per il territorio, per valorizzare, per la ricerca che viene effettuata sul territorio, che vivono sul territorio, diventa un po' difficile. Io di lavoro in città ne ho ben poco, e comunque fortunatamente non posso reputarmi un musicista che suona poco, però in città non faccio quasi nulla se non nulla. Io ci tenevo molto ad avere questo tuo parere, perché a parte il fatto che concordo sullo stato di difficoltà che sta vivendo un po' la nostra città, e credo che questo stato di difficoltà è un po', diciamo, lo stesso che vive tutta la nostra nazione, in realtà un po' in tutta Italia c'è questa situazione di blocco. Bologna chiaramente percepisce molto il peso di questo blocco, perché da sempre storicamente è stata fucina e punto di incontro di diverse musiciste, di diverse arti. È chiaro che andare a percepire a Bologna una situazione di, in questo momento, freno a mano tirato, nel vero e proprio senso della parola, per quello che riguarda il live, è molto più immediato di andarla a percepire magari in una città un pochettino più piccola. Però quello che è importante è, per noi qui a Suoni Paralleli, è dare il punto di vista dei musicisti, quindi era una cosa che ci tenevo molto a chiederti, che ho chiesto anche ad operatori del settore discografico, e credimi, hanno avuto le tue stesse parole, siamo andati molto sullo stesso discorso. La verità è che giustamente noi siamo semplicemente una trasmissione che si occupa di musica e che quindi, tra virgolette, può denunciare anche questa situazione, questo stato di fatto. Fa parte forse anche un po' del nostro ruolo, andando oltre il discorso dei musicisti, Pasquale, no? Sì. Può essere giusto che una trasmissione radiofonica faccia notare queste cose? Secondo me, per fortuna che ci sia qualche trasmissione che faccia notare queste cose, che magari, che poi si occupa di musica, quindi io credo sia fondamentale far notare quali sono le problematiche che un musicista può riscontrare. Cioè, una città, noi parliamo di Bologna, ma io credo che comunque sia una situazione nazionale, abbastanza nazionale. Vedo in tanti paesi, soprattutto dell'est Europa, ogni volta che mi ci ritrovo a suonare resto meravigliato per la quantità di eventi che ci sono nella stessa città, per lo spostamento, la voglia da parte dei giovani di contribuire, essere presenti ai concerti, della musica dal vivo, di partecipare. E ogni volta mi dispiace che nel nostro paese questo non avviene, che ci siano problemi proprio opposti. È davvero un peccato, è davvero un peccato, e rinnoviamo quindi il nostro appello a far sì che non solo a Bologna, ma poi in realtà anche a livello nazionale, vengano redistribuiti gli spazi, vengano messi a disposizione della partecipazione, che in questo momento sta diventando un po' il motore propulsivo dell'arte in tutta Europa, quindi che dobbiamo un po' ripristinare anche noi nella nostra Italia, nella nostra Bologna. Io con te, Pasquale, abbiamo cominciato subito a parlare di mix di generi musicali e siamo passati dal discorso mop anche a far ascoltare questa tua produzione con Emid Drake. Si parlava di percussionisti, si parlava insomma di produzione. Spesso e volentieri noi nel nostro programma abbiamo parlato anche di come i musicisti incontrano quelli che modernamente vengono detti beatmaker oppure producer. Volevo fare ascoltare anche in questo caso, come abbiamo fatto prima con Saint Germain, per una questione legata allo stile musicale, al genere musicale proposto, volevo far ascoltare un altro producer, diciamo molto molto noto, che esce un po' dal nostro genere musicale e che ci porta a vedere un po' dal punto di vista della percussione del batterista, perché lui nasce come batterista, qual è il vero incontro che anche dal punto di vista elettronico può essere proposto a questi musicisti. Il nome che andiamo a far ascoltare, la produzione, è sicuramente una delle migliori mondiali, lui passa col nome di Aphex Twin. We'll be right back. questo era Aphex Twin qui a Suoni Paralleli sulle frequenze di Radio Città Fucico 103.1 FM. Ospite di questa puntata di Suoni Paralleli, Pasquale Mir, ancora benvenuto Pasquale. È stato veramente piacevole affrontare con te questo discorso che riguarda sia la ricerca e l'individuazione dei nuovi sound e di come questa ricerca può andare ad essere sviluppata, insomma, nei progetti di diversi musicisti. Abbiamo parlato delle tue collaborazioni anche con diversi musicisti internazionali e volevo chiederti, Pasquale, una cosa che chiedo spesso ai nostri ospiti. Noi facciamo ascoltare di tutto a livello di generi musicali, non abbiamo paura spesso di mettere generi opposti all'interno della stessa puntata, anche perché a prescindere dal filo conduttore, quello che ci interessa è far percepire il concept della ricerca e della diversità dei generi musicali che ci sono nel nostro panorama musicale. Abbiamo appena fatto ascoltare Aphex Twin proprio perché lui è uno di quelli che della ricerca e del mix ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia ed è arrivato ad affermarsi sulle scene mondiali come ricercatore e come mente dal punto di vista elettronico. Mi fa curiosità spesso immaginare qual è l'ascolto che può fare Aphex Twin, ad esempio, per arrivare all'elaborazione della sua produzione. Quindi automaticamente una domanda che io faccio spesso ai nostri ospiti qui in studio a Suoni Paralleli è: ok Pasquale Mira, tu lo vedi come ricercatore, suona tantissimo e affascina il pubblico col suo vibrafono di estrazione jazz ma sperimentale e rivolto al mix di culture, di suoni e di generi musicali, ma la vera domanda è: cosa ascolta Pasquale Mirra poi nel suo privato? Perché ogni musicista crea il suo input, diciamo, lo cerca fino a un certo punto, però poi lo va a creare ascoltando generi diversi e cose diverse spesso, oppure ascoltando delle cose che spesso non c'entrano, che possono apparire improbabili. In realtà mi fa spesso curiosità questa cosa. Io ascolto veramente di tutto, vale a dire, mi piace Aphex Twin materialmente, sì, però chiaramente non smetterei mai di ascoltare i miei paradigmi jazz, ma come non smetterei mai di ascoltare ad esempio anche un Tony Tammaro, capito? Certo. È un po' questo il senso, mi fa davvero curiosità per il nostro pubblico, vogliamo dirgli cosa ascolta Pasquale Mirra? Beh, io credo che gli ascolti comunque siano periodici, non quindi posso parlare di quello che ascolto in questo periodo, ma poi ci sono delle costanti. Nell'ultimo esempio, periodo, Jimmy O'Rourke è un musicista che ascolto tantissimo, quasi sempre, lo adoro, così come Robert Wyatt, insomma sono musicisti a cui sono molto legato. Mi piacciono molto, ascolto molto i Tortoise, anche perché con alcuni di loro ho avuto la felicità di collaborare a New York. Ascolto molto Rob Mazurek, diciamo, con cui collaboro. Mi piace molto ascoltare anche musicisti con cui collaboro e conoscere più cose di loro, perché poi, proprio come si diceva, sempre per il discorso delle contaminazioni, sempre per il discorso delle ricerche, a volte ti ritrovi a collaborare con dei musicisti per una determinata produzione e magari neanche conosci questi musicisti. Poi quando approfondisci il loro percorso ti rendi conto che è ricco di contaminazioni. E questo per ritornare alla domanda iniziale che mi hai fatto. Certo. Poi insomma ascolto gli Veti, diciamo ho un ascolto abbastanza variegato, che c'è input in diversi generi musicali. Sì. Su tutti comunque ora, in quest'anno, non so se dire in questo periodo, ma forse in quest'anno, Jimmy O'Rourke sicuramente è il musicista che più ha un po' catalizzato le mie... Diciamo che da Jimmy O'Rourke a Robert Wyatt hai dato dei riferimenti molto molto chiari, anche per quello che riguarda l'indipendenza della produzione musicale. Sappiamo benissimo che Robert Wyatt, in quanto presidente del consorzio dei suonatori indipendenti della scuola di Canterbury, certo, insomma, ha fatto storia proprio per dare un messaggio molto simile a quello di cui stiamo parlando, vale a dire contaminazione e diciamo ricerca portano ad una sorta di evoluzionismo musicale che lui ha sempre valutato come importantissimo nella sua produzione, certo, da Mechi Mole, Soft Machine, fino ad arrivare agli ultimi suoi dischi, fino a Rock Bottom, per dire, no? Certo. Che è un disco che veramente anch'io adoro particolarmente, quindi mi ha colpito per questo. Però materialmente parlando, il messaggio di Wyatt è lo stesso che diciamo è diventato argomento della nostra sì, trasmissione, argomento di cui stiamo parlando anche oggi qui con te. Pasquale, io davvero ti ringrazio per questa partecipazione a Suoni Paralleli, ci tenevo molto ad intervistarti e a far avere al nostro pubblico anche il tuo parere in merito a quelli che sono gli argomenti di cui stiamo parlando poi con addetti ai lavori e non, perché ne parleremo e ne continueremo a parlare sia del discorso live che del discorso ricerca. Io volevo salutarti riproponendo in chiusura un altro brano dei Mop, perché è uno di quei progetti che spesso e volentieri, proprio in cui sei stato coinvolto in prima persona, in cui lo stesso Andrea Benini, Ale Trebo, Mineo, Messico, insomma tutti i grandi musicisti che hanno partecipato con te a questo progetto si sono messi un po' in discussione e sono andati a svolgere una vera e propria ricerca all'epoca sui vari stili, no? Soprattutto questa cosa ha riguardato il produttore, quindi Andrea Benini in primis, però insomma mi sembra che il risultato di questa ricerca sia stato molto molto buono, anche se ha costretto poi la produzione Mop ad emigrare verso sponde più europee rispetto a quella italiana, forse per ricondurre al discorso che facevamo prima sulla carenza italiana in questo momento di approccio e di sperimentazione. Questa che andiamo a far ascoltare per chiudere la nostra sesta puntata di Suoni Paralleli e un'altra produzione Mop è stato un vero piacere per Suoni Paralleli e per Radio Fujiko avere ospite della nostra trasmissione Mister Pasquale Mirra. Speriamo che ci verrai a trovare anche molto presto di nuovo, Pasquale, no? Io lo spero, è stato un piacere mio, grazie a te Antonino, grazie a Suoni Paralleli e a Radio Città Fujiko per avermi invitato e per aver dato la possibilità di esprimere il mio pensiero e musicale ma anche extra musicale, insomma. Il piacere è stato davvero tutto nostro, è stato davvero un enorme modo di incontrare un genere musicale anche particolarmente pregiato per quello che mi riguarda. Io ti ringrazio di questo. Grazie. Noi ci vediamo sabato prossimo sempre alle 13:30, sempre sulle frequenze di Radio Fujiko 103.1 FM, sempre con Antonino Barresi che vi parla. Rientrerà anche la nostra Francesca Clementoni. Questa è Suoni Paralleli, ragazzi, una buona giornata, a sabato prossimo.